Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Bene, sono le 11.08 e parleremo oggi di hamburger. Parleremo di hamburger perché? Perché negli ultimi tempi questo piatto, chiamiamolo così, questa forma particolare di carne, sta avendo un grande successo. Sta avendo un grande successo perché? Perché soprattutto è stata reinterpretata, viene reinterpretata da macellai che producono un hamburger, diciamo, completo, pronto per essere cotto, oppure da grandi chef. Quindi diciamo una nuova stagione, e non bisogna dimenticare che esiste sempre McDonald's, questo colosso che sicuramente, mi sembra, una 55 anni fa ha introdotto per primo in maniera vincente questo hamburger in giro per il mondo, ed è, credo che in ogni angolo del mondo ormai lo si conosca con questo nome, magari con cadenze diverse rispetto alle lingue. Appunto, ne parleremo perché ha avuto grande successo in alcuni anche ristoranti, diciamo, blasonati, ma soprattutto sono i macellai che sono molto protagonisti nel rilancio dell'hamburger. Allora io voglio proprio cominciare da Franco Cazzamali. Buongiorno Cazzamali. Buongiorno. Macellaio in Romanengo, provincia di Cremona. Ecco, Franco Cazzamali un po' di anni fa si è presentato sul mercato con un qualcosa che ha chiamato Giotto. Giotto è, chiamo il tondo sicuramente, lui l'ha voluto identificare con questo nome per non chiamarlo col nome, diciamo, col quale viene identificato, diciamoci la verità, McDonald's in tutto il mondo. E allora Franco, come mai ti è venuta questa idea di fare questo prodotto che so che ha avuto grande successo? Allora, innanzitutto l'idea è venuta a me, a Sergio Capaldo, anche perché tu sai che la nostra carne è un prestigioso food ed è una razza piemontese, e per quale motivo, siccome tutta carne italiana, razza italiana, allevatori italiani, macellai italiani, il cerchio l'ha inventato Giotto, che era italiano, non riuscivo a capacitarmi invece di chiamarla hamburger, e allora abbiamo chiamata Giotto. Per un fatto di provocazione e anche per un fatto di italianità del prodotto. Tutto qua. Bene, io volevo ricordare ai nostri radioascoltatori che possono intervenire sicuramente su un argomento che credo riguardi un po' tutti. Numero verde 800 24 00 24, i messaggi SMS 349 238 6666. Ti faccio una provocazione. Hai mai mangiato l'hamburger? Non voglio sapere se è buono o no, ma McDonald's? Non l'hai mai mangiato? Bene, questo credo che, insomma, varrebbe la pena di provare, credo, una volta nella vita. Dicevo, un grande successo in tutto il mondo. Poi ovviamente ci sono anche molte esagerazioni, perché ad esempio a New York c'è un hamburger che si chiama Richard Nouveau che viene venduto a $175, e ci sono anche altre esagerazioni di questo genere. Ecco, quanto costa un hamburger? Io non voglio sapere il tuo, però calcolando quanta carne ci va e il lavoro, e diciamo anche di carne primaria, quanto può costare un hamburger, diciamo, nudo e crudo? Ma allora, innanzitutto io vorrei dire il nostro Giotto, che è fatto esclusivamente di carne bovina al 100%, noi in negozio lo vendiamo a €15 al chilo, però sul mercato lo si può trovare anche a 3,50 euro, 4 euro, 5 euro, 6 euro, dipende un po' da che cosa c'è all'interno del prodotto. Senti, con €15 al chilo quanti hamburger si fanno? Calcola che €15 è minimo 10 hamburger da 100 grammi l'una. Bene, grazie a Franco Cazzamali. Ma ora andiamo in Piemonte, andiamo proprio in una storia molto divertente, sempre che riguarda l'hamburger. Io ricordo, numero verde 800 24 00 24, chi vuole intervenire e dire la sua su questo argomento che è molto molto popolare. Andiamo da Francesco Bianco. Francesco Bianco a Rivoli ha aperto un'agri hamburgeria, però diciamo che si chiama in una maniera particolare, si chiama McBoon, ma non si può scrivere Mac ovviamente, perché Mac è un nome depositato. Allora voglio chiedere innanzitutto a Bianco cosa vuol dire McBoon. Intanto buongiorno a tutti e ciao Davide. Allora, il nome in realtà è McBoon, non è McBoon, perché McBoon in piemontese vuol dire solo buono, ed è un nostro modo di dire, di intercalare nelle frasi, di dare, cioè di, proprio un modo di dire piemontese. Quindi è un modo di dire piemontese che voi avete fatto vostro, e per produrre, ecco, cos'è questo hamburger, diciamo agri hamburgeria, cosa significa? Allora, Green Burgeria perché il mio socio, che la, si chiama Scaglia, ha un'azienda agricola di famiglia che con la moglie e due fratelli alleva da tre generazioni carne di razza piemontese, poi alleva anche dei polli, dei conigli e dei maiali. Beh, quindi sì, dica, questo è un po' il concetto, perché praticamente c'è una vera filiera corta, quindi dal produttore al consumatore, ecco. Bene. Tramite questo sistema di fast food. Rimanga con noi, sentiamo Alessio da Forlì, buongiorno radioascoltatore. Ciao Davide, ciao, sono Alessio da Forlì, volevo dire la mia. Io ho un ristorante da 12 anni, sono 8 anni che propongo proprio tre piatti diversi di hamburger fatti da noi con carne italiana della zona, e siamo molto contenti, perciò non è, per noi non è, diciamo, una novità. Quindi scopriamo l'acqua calda nel dire che si sta diffondendo l'hamburger così, diciamo, vestito in maniere completamente diverse. Ma a proposito, io voglio leggere anche, c'è un radioascoltatore che mi dice di non leggere la sua SMS, ma non lo devo leggere, perché dice: io non l'ascolterò più perché parla di McDonald's. Io non sto parlando di McDonald's, io sto parlando di hamburger. Però è chiaro che McDonald's è un fenomeno importante, anche se uno dice non vado da McDonald's, non amo McDonald's, non ci andrò mai, è un fenomeno che non si può così dimenticare e non si può far finta di niente, caro radioascoltatore Federico da Pisa. Non stiamo inneggiando a McDonald's o altro, anzi, io se c'è qualcuno che vuole criticare o qualcuno che vuole difendere McDonald's, lo faccia. Numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Mi sembra veramente questo un comportamento da bambini, cioè non ne parliamo e così dimentichiamo il fenomeno. Stiamo parlando di hamburger, stiamo parlando di Agri Hamburger, stiamo parlando di McBoon, stiamo parlando di Giotto, stiamo parlando anche di McDonald's, perché no? Bene, numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Sono partito da un fatto molto particolare: c'è un boom dell'hamburger, non si può negare, in giro per l'Italia ci sono, come vedremo, tanti chef che lo hanno addirittura nel menù, ci sono tanti macellai che lo stanno interpretando in maniera diversa, c'è addirittura, appunto, come abbiamo sentito, un ristoratore a Forlì, che tra l'altro è la mia città, che da 8 anni, non lo sapevo, mi spiace, propone l'hamburger, ma ce ne sono tantissimi altri. Vedo tantissimi SMS, grande di hamburger di Damini ad Arzignano, mi segnala un radioascoltatore, poi ancora conosci l'hamburger che fanno al birrificio Bruton vicino a Lucca, e poi ancora tanti altri, insomma, che segnalano. Quindi mi sembra che sia veramente un onnipresente l'hamburger, molto di più di quanto non pensassi. Vedo che parlate, c'è qualcuno che ne vuole parlare male, bene, intervenite e parlatene male. Continuiamo però col nostro giro, torniamo a Francesco Bianco a Rivoli. Volevo chiedere a Rivoli, io so che lei avete delle specialità particolari, Mac al verde, Gottmak de Suta, Toma Kiel, cosa sono questi messaggi? Allora, noi ci siamo divertiti a creare un menù con dei nomi piemontesi, e quindi questo è stato un po' il gioco, per cui andiamo dall'hamburger classico nostro che si chiama Kiel, che vuol dire lui in piemontese, al Tuma, che è quello con la toma, quindi è quello che normalmente in un fast food classico che si chiama cheeseburger noi usiamo per una toma dal peggio, eccetera. Poi c'è il Gottmak de Suta, che vuol dire levati solo da sotto, perché c'è la cipolla e la pancetta. E poi abbiamo appunto il McBoon, che è quello di puro fassone, c'è pure carne piemontese. Bene. E senza cugnissiun, che è l'hamburger di carne piemontese con la bagna cauda. Bene, queste, diciamo, sono un po' le nostre specialità. Guardi, ho un radioascoltatore da Torino, sentiamo Daniele. Sì, buongiorno. Prego, prego Daniele. Ma io ho provato il ristorante a Rivoli, McBoon, e devo fare un appunto, perché ho trovato la carne non all'altezza di quello che mi aspettavo. Io mangio ogni tanto a McDonald's, non molto spesso perché mi piace anche la cucina piemontese, e devo dire che non ho rimpianto McDonald's. Bene, fare questo appunto. Bene, giusto Francesco Bianco, che carne usate voi? noi usiamo solo carne allevata da noi, tutta carne piemontese. Nell'hamburger classico c'è anche un 30% di carne di maiale. Bene. All'interno degli non ci sono altri ingredienti, a differenza degli hamburger che trovi sul mercato, che e non sono fatti solo di carne, insomma, bene. Ormai si sa. Grazie Francesco, okay. E come vedete la radio è libera, si può intervenire addirittura anche questa coincidenza. Sentiamo anche Alessandro dalla provincia di La Spezia. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Davide, volevo anche noi facciamo nella nostra osteria Montemarcello, l'osteria Marcellino Pane e Vino, l'hamburger da diversi mesi. Facciamo il pane per l'hamburger con la farina biologica e il lievito madre e usiamo della carne della Val di Vara, che è una vallata sopra Spezia che fa carne biologica. È prevalentemente carne di vitellone e poi lo facciamo in una versione un po' più italiana, nel senso che facciamo anche noi la maionese, la facciamo più agrumata e usiamo farcirlo anche con delle verdure grigliate e il basilico, perché in Liguria, insomma, bene, abbiamo tanto. Grazie, la ringrazio, grazie anche a lei, bellissimo Montemarcello, la stupenda Montemarcello. Sentiamo, ora abbiamo con noi Dario Cecchini, macellaio di Panzano, molto noto per la famosa battaglia della bistecca, ma soprattutto anche per altro, ma anche perché lui da anni ha aperto un locale che si chiama McDario. E allora Dario, Davide, buongiorno a tutti. Bene, io so che tu sei in macelleria, magari che stai vendendo anche degli hamburger, ma tu come lo prepari questo hamburger? Ma io Davide lo preparo, allora prima di tutto io vorrei chiarire la cosa, l'hamburger ora sta diventando la moda. Certo. Per una macelleria di campagna come sempre è stata da 200 anni, tanto è la vita della macelleria Cecchini, appunto il modo di lavorare, il concetto, il progetto che c'è dietro al McDario è di vendere tutto il manzo. Cioè non tanto di seguire quello o quell'altra moda, ma di dare delle risposte contemporanee a quello che quante volte Davide si dice le massaie, le signore non hanno più tempo di cucinare in casa, di fare brasato, ok. Siamo nel 2010, tutti bisogna lavorare, mariti, mogli, compagne, perché la crisi incombe, il concetto è quello di servire buon cibo a buon prezzo. Il mio hamburger è preparato con il taglio del quarto anteriore di manzo e con l'aggiunta di pochissimo burro del Chianti, che tu conosci e che per chi non lo conosce è una crema di lardo che serve a dargli un po' di morbidezza, ma ce n'è una punta appena per renderlo più soffice. Non c'è sale dentro l'hamburger, chi lo vuole lo prepariamo anche senza glutine, perché io faccio una panatura con il pane raffermo tostato e macinato da noi per renderlo un po' più croccante. Il mio è un hamburger cotto con un pochino di olio d'oliva e non grigliato, un hamburger toscano. Bene, grazie, rimani con noi comunque Dario. Sentiamo un radioascoltatore, Angelo da Ravenna, buongiorno. Buongiorno, sono un medico e volevo difendere McDonald's, perché McDonald's viene demonizzato, però io e mia moglie senza McDonald's in giro per lavoro per il mondo saremmo morti di fame. McDonald's viene demonizzato perché dicono che è cibo spazzatura. Sarà anche cibo spazzatura, però se noi usiamo le tabelle dietetiche, che tra parentesi sono distribuite da McDonald's sul vassoio, basta solo leggerle, e evitiamo le patatine fritte, gli hamburger di McDonald's dal punto di vista dietetico sono assolutamente bilanciati. E sarà cibo spazzatura nel senso che non avrà la qualità di Gualtiero Marchesi, però hai la sicurezza che non mangi porcherie, che mangi con nel rispetto delle norme igieniche, e in qualunque posto del mondo, dall'Australia fino all'America, alla Cina, dappertutto, quando sei in difficoltà, con McDonald's mangi tranquillo. Bene, Angelo, io come ho detto questa radio è libera, si può intervenire, chiunque può intervenire a favore, contro, dire la propria opinione. Lo ricordo ancora, numero verde 800 24 0024, poi ognuno ovviamente trae le conclusioni che vuole. Ma ora abbiamo con noi un personaggio storico dell'hamburger, perché Ringo Bar a Firenze, appena dietro Ponte Vecchio, quindi un posto famoso, da una vita fa hamburger, e posso confermare che forse il mio primo articolo scritto sull'argomento, sulla rivista diretta da Ugo Tognazzi, che si chiamava Nuova Cucina, fu su questo personaggio, su questo Ringo Bar e sul suo hamburger. Buongiorno Romano Puliti. Buongiorno signor Davide. Romano, da quanti anni fai l'hamburger? Allora io faccio l'hamburger da prima che McDonald's sbarcasse in Europa, questa è la verità. Quindi che anno? 67 io facevo gli hamburger, però io non sapevo che cos'erano gli hamburger, aprivo un panino, mettevo qualche cosa dentro e lo chiamavo hamburger, e come mai? Beh, non lo so, guarda, c'è anche un radioascoltatore che mi chiede via SMS se è americano o tedesco. Diciamo che la parola hamburger è tedesco, vuol dire viene da Amburgo. Poi, esatto. Poi che sia e stato viene proprio da quel posto lì. Poi è stato adoperato in America come spazzatura, però ora non è una spazzatura l'hamburger. È una cosa ricercatissima. Ma io credo che non fosse stato mai una spazzatura, perché credo che all'inizio fosse in maniera... Ma molto... non era considerato niente. Quando leggevano hamburger, cioè davano... Io parlo nei locali di italiani. Quando leggevano hamburger non entravano nemmeno chi voleva essere nutrito di un buon cibo. Ora è diventato al vertice, capito? È tutto lì, signor Davide. Caro Romano, io ti ringrazio della tua testimonianza. Il mio hamburger... non è macinato tanto fine e bisogna cuocerlo in una piastra di ghisa non ondulata di circa 1.500 calorie. Bene, Romano, grazie. Lo ricordo, Ringo Bar a Firenze. Sentiamo ora Margherita dalla provincia di Milano. Buongiorno Margherita. Buona giornata a tutti voi. Bene, io sono una signora anziana, decisamente, anche vecchia si potrebbe dire, però non sono mai d'accordo con quanti considerano appunto cibo spazzatura il cibo di McDonald's. Innanzitutto non è vero, e in secondo luogo si mangia a prezzi molto modesti, molto moderati, e questo finisce per essere un servizio pubblico, perché insomma non tutti possono permettersi di spendere 20, 30, 40 euro per mangiare tutti i giorni. Quello che si può fare piuttosto è di intervenire, e questi sono imprenditori, quindi lo fanno e accettano, affinché gli abbinamenti all'interno dell'hamburger siano più sensati. Mettere nell'hamburger il parmigiano, per esempio, è un controsenso, è una cosa che non ha... mentre invece aggiungervi dell'insalata, aggiungervi del pomodoro, non direi che si deve mangiare tutti i giorni in questo modo, però non sono affatto d'accordo che sia un modo di mangiare assolutamente deleterio e addirittura definito spazzatura. C'è molto snobismo in questo senso, direi. Bene, diciamo comunque che su McDonald's sono stati scritti ormai migliaia di libri, non so quanti, è stato anche fatto degli esperimenti di signori che hanno mangiato, di un giornalista che ha mangiato per un mese tutti i giorni hamburger da McDonald's, con così dal punto di vista medico, poi avendo dei grossi disturbi, però mangiando tutti i giorni. Ovviamente non è che la gente mangia tutti i giorni per 30 giorni mattina e sera hamburger. Comunque diciamo che su McDonald's ormai esiste si potrebbe fare una vera e propria enciclopedia incredibile. Forse è stato l'argomento più dibattuto nel mondo del cibo e del vino. Ma sentiamo ancora Cecchini, che poi lo lasciamo. Dario, tu hai mai mangiato da McDonald's? Ma io, Davide, mi sono trovato una volta ad una festa organizzata dal consolato americano a Firenze con il banco del McDonald's e con i responsabili del McDonald's, e ho mangiato l'hamburger da McDonald's, e io trovo quella signora, che si è definita anziana, quasi vecchia, di un pensiero estremamente giovane, nel senso: McDonald's fa un buon lavoro per una fascia di utenza, Davide, e questo è innegabile, perché non tutti hanno i soldi in tasca per pagare un pranzo di lusso o un hamburger di lusso. Il problema di noi artigiani, di me macellaio, il problema dei ristoratori è di fornire, in questa congiuntura specialmente, buon cibo a buon prezzo, altrimenti uno si mette in una sfera di cristallo e lavora solamente per l'elite. Ecco, io credo che gli artigiani hanno il dovere di spiegare come si fa buon cibo a buon prezzo, perché se non te lo dicono i macellai, che nella ciccia ci mettono le mani tutti i giorni, e che si deve fare? Io ci credo in questo. Bene. Credo io, e poi credo anche in un'altra cosa: io adoro il cibo veloce, Bene. Non si può stare tutte le volte a tavola per tre ore a fare degustazione di vini, a mangiare cose sopraffine. Siamo a lavorare, specialmente di giorno. Il mio meccanario lavora di giorno, 6 giorni alla settimana, i feriali, vengono gli operai, vengono la gente che lavora, venga a quelli normali, non solo, ma soprattutto. Devo dire che dagli sms e dalle telefonate veramente l'argomento è molto sentito. Ma sentiamo Silvia da Bolzano. Buongiorno Silvia. Pronto? Buongiorno. Pronto, scusatemi l'emozione, mi trema la mano che tiene il microfono, non ho mai parlato alla radio. Bene, è la prima volta, su, via. Dunque, io vorrei sapere le parti che vengono prese per fare hamburger. Io quando li ho mangiati, non al McDonald's, li ho mangiati, mi risultano molto indigesti. Cioè, nel senso, che parti prendono? Prendono anche le parti nervose che richiedono chili di aglio o di roba per questo volevo sapere. Bene, grazie. Silvia, io credo che ognuno, ogni macellaio e ogni anche McDonald's, ma tanti altri luoghi di fast food, abbiano ognuno di loro una ricetta particolare. Abbiamo sentito prima che ne abbia parlato Cecchini, di usare il quarto anteriore, cioè le parti che non è vero che sono meno pregiate, però sono le meno richieste, proprio per ottenere un equilibrio, diciamo, sulla vendita. Quindi credo che siano sempre ricette l'una diversa dall'altra. Ma sentiamo anche Alessandro dalla provincia di Firenze, ricordo il numero verde 800 24 00 24. Prego, Alessandro. Buongiorno. Allora, mi permette anche un saluto a Dario, che conosco personalmente, chiamando da Firenze, per me è staffa obbligata. Volevo solamente ricordare l'importanza della macinatura. Facendo la rotina, ovviamente mi trovo di fronte spesso a delle piastre, delle prima carne, diciamo pure massacrate. Quindi volevo ricordare questo aspetto, che è sempre messo in un secondo piano. Quindi avere delle piastre ben affilate vuol dire macinare e non spappolare la carne. Credo che il gusto, insomma, è come ricetta. Bene, grazie di questa precisazione importante. Sentiamo ora, abbiamo con noi Cristian Magri. Cristian Magri è uno chef che ora ha aperto un suo locale a Settimo Milanese, che è bar, ristorante, dolce, eccetera. Ebbene, in questo variegato menù che lui presenta c'è anche un hamburger. Però devo dire che Cristian Magri, già anni fa, anche quando era in altri ristoranti, aveva come proposta l'hamburger. Chiedo, caro Cristian, l'hamburger te lo porti sempre con te? Ciao Davide, ciao a tutti i radioascoltatori. Un po' come hai detto tu, sì, lo porto un po' con me, anche perché è un piatto al quale mi sono un po' affezionato. È un piatto che mi ha proposto anni fa il Marco Martini, che tu conosci bene. Che è un grande macellaio, quindi diciamo che è uno dei più straordinari macellai che ci siano in Italia, insomma. Esatto, e quindi insomma, poi come poter lasciare questa carne, questa proposta semplice e veloce per il mezzogiorno. Ecco, tu, ma però è molto particolare, poi non è solo, cioè, c'è una carne appunto di primissima qualità, ma tu aggiungi anche delle cose, se non erro. Sì, aggiungo, guarda, per questo periodo, per la primavera, abbiamo fatto un hamburger abbastanza semplice, con maionese fatta da noi, pomodori confì, misticanza e dell'olio extravergine di oliva, che metto anche nel pane con del sesamo bianco tostato. Ecco, tu hai appena aperto questo nuovo locale, la gente come reagisce? Perché sei anche in una zona nuova dove non eri mai stato, quindi? È un concetto nuovo, infatti la gente piace perché iniziamo col mattino, dolce eccetera, perché iniziamo col mattino con le colazioni, con croissant e sfoglie appena sfornate il mattino, per poi procedere con l'aperitivo il mezzogiorno, quindi entra in gioco l'hamburger e altri piatti, a mio avviso, sfiziosi, per poi proseguire per tutto l'arco della giornata, quindi un ripetersi con di nuovo aperitivo verso le 18 e il gelato, se si vuole, per la sera. Bene, per la merenda. Grazie a Cristian Magri e auguri per il suo nuovo locale a Settimo Milanese. Bene, ora sentiamo Filippo da Pistoia. Buongiorno Filippo. Buongiorno, è un piacere parlare con lei, Paolini. Bene, mi dica allora. Allora, io avevo bisogno di un aiuto, soprattutto da lei, perché ho difficoltà a trovare il ristorante giusto, il posto giusto in cui andare a mangiare. Ci sono tante informazioni a giro e non riesco praticamente io a capire qual è il ristorante di qualità che fa la bistecca di qualità, che fa l'hamburger di qualità. Per questo io avevo bisogno di un'informazione come consumatore più mirata, più precisa, in modo tale che io in ogni momento riesca ad andare a scegliere un prodotto di qualità da un macellaio di qualità o di un ristorante di qualità. Bene, caro Filippo, la sua è una domanda da $1 milioni, ovviamente è veramente difficile in pochi minuti. Io credo che, e lo dico sempre, bisogna testare, bisogna andare in più posti e sicuramente lasciarsi andare, cioè non ricorrere a consigli altrui. Provi e sicuramente alla fine, dopo aver provato diversi posti, capirà dove continuare ad andare o meno. Io credo che personalmente sia la cosa migliore di farsi queste esperienze, e poi sicuramente avrei altre cose da dirgli, ma voglio sentire anche gli altri, diciamo, radioascoltatori, nonché gli altri ospiti, a cominciare da Filippo Gozzoli, che è lo chef del Park Hyatt a Milano. Bene, allora, in galleria Park Hyatt ristorante, bene, si mangia l'hamburger, vero Filippo? Buongiorno Davide, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Sì, da noi si mangia un hamburger molto particolare, perché diciamo questo concetto qua l'abbiamo portato io e il direttore dopo un viaggio fatto in America da Robuchon, dove proponeva già questo mini hamburger, e così ci è venuto in mente di proporre questa sorta di comfort food, come si chiama oggi, da poter mangiare con le mani, perché la gente ha sempre meno tempo per fare un pranzo lungo, e quindi per aiutarli in tempo e in velocità, dando sempre qualità, si è pensato di proporre questo hamburger particolare. Senti Filippo, tu mi hai detto privatamente, ma non svelo un segreto, che è veramente molto gettonato questo piatto, vero? Sì, guarda, da quando l'abbiamo messo in carta, sono sincero, ne vanno tipo 25-30 al giorno. Diciamo che la forza di questo hamburger sta sia nella qualità della carne, perché abbiamo fatto questo esperimento con questo macellaio che si chiama Masseroni, di farlo con 70% manzo e 30% vitello, per evitare che con il solo manzo fosse troppo asciutta la carne. E poi il peso, perché lo proponiamo da 80 grammi l'uno con due panini diversi. Il pane viene fatto dal mio pasticcere, che tu conosci, Galileo, è un pane al latte fatto con dei semi di finocchio da 40 grammi l'uno. Bene. Grazie Filippo Logolzoli. Grazie mille, buona giornata. Park Hyatt Hotel. Sentiamo Sergio da Modena, un radioascoltatore. Buongiorno Sergio. Buongiorno. Parlo di hamburger perché conosco la materia, io fornisco materia prima alle grosse aziende che producono hamburger a livello commerciale e industriale, anche a livello privato. Va detto subito che quando si parla di qualità, in Italia, parlando di qualità della carne, dobbiamo sempre tenere presente che più del 49% del prodotto che noi consumiamo arriva dall'estero. E quindi questo non sempre vuol dire qualità, rispetto alla qualità che noi intendiamo. Dopodiché la qualità la fa il sapore, la qualità la fa il prodotto stesso. Quando in America noi parliamo di carne sempre molto ben saporita. Se noi proviamo di vedere la mezzena americana rispetto alla mezzena prodotta in Italia, scopriamo che la mezzena americana ha almeno il 30% più di grasso rispetto a quello che il commercio ci chiede di produrre in Italia. E questo forma il sapore, forma la qualità. Quindi c'è un insieme di cose che bisogna tenere presente. Sentiamo Paolo D'Avellino, radioascoltatore. Buongiorno Paolo. Buongiorno Davide. La domanda è molto semplice. La differenza nella composizione fra una polpetta e l'hamburger? Bene, lei è fortunato perché abbiamo in linea con noi Severino Gala, che è un macellaio della Maddalena, che tra l'altro poi parleremo, produce un grandissimo hamburger. Chiediamo a Severino, che differenza c'è tra l'hamburger e la polpetta? C'è una grossa differenza. Intanto ti saluto, Davide, a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Dopo, tra l'hamburger e la polpetta c'è una grossa differenza. Una differenza anche nel composto della carne e soprattutto negli ingredienti che si mettono. Quindi sono due cose completamente diverse, insomma. Sì, sì. Bene, tu fai sia polpette che hamburger, ma io voglio sapere da te il tuo hamburger, perché d'estate è incredibile che alla Maddalena, dove la gente d'estate mangia sempre pesce, vuole sempre pesce, invece l'hamburger di Severino Gala va alla grande. Ma cosa c'è di misterioso nel tuo hamburger, Severino? Non c'è niente, di misterioso non c'è niente, c'è carne di prima qualità, quella è la cosa fondamentale, più ci sono delle erbe aromatiche che qua Madre Natura ci ha dato nel nostro incantevole posto, nella superiore Maddalena, che è anche parco. È un mister di queste erbe insieme alla carne di prima qualità, perché fondamentale è la carne, è la fortuna dell'hamburger. Bene, io credo che magari sarà molto gettonato per la Wheaton Club. No, cosa c'è là in questo momento? C'è qualcosa, c'è qualche gara, no? Sì, ci sono le gare del Wheaton Club, ci sono le gare, sono belle giornate. Bene. Che si può fare il bagno? Si può fare il bagno, sì. Bene, rimani con noi. Bene, io ho due uno chef e, diciamo, il patron, uno dei patron del ristorante Le Calandre di Padova, anzi di Rubano di Padova, Andrea Berton di Tursardi alla Scala. Bene, diciamo un 3 stelle e un 2 stelle, non abbiamo Massimiliano ma abbiamo Raffaele, che è il fratello. Ma io voglio fare una domanda a tutti e due. Questa reinterpretazione da parte anche di grandi chef dell'hamburger significa che la domanda del consumatore sta andando a semplicità e più rapidità, diciamo, nella preparazione, quindi da parte degli chef e quindi da parte delle aspettative del consumatore, oppure è qualche cos'altro? Lo chiedo prima a Andrea Berton. Buongiorno a tutti, ciao Davide. Saluto anche Raffaele. Innanzitutto credo che il consumatore, come giustamente dicevi tu, va alla ricerca, secondo me, della qualità, quindi di un prodotto di qualità. Poi che sia un hamburger o un'altra pietanza, ritengo che ci sia una filosofia che va rispettata, quindi proporre al cliente una materia prima di qualità. Poi l'hamburger chiaramente è un piatto molto conosciuto e quindi io l'ho comunque interpretato a modo mio perché innanzitutto mi piace a me come prodotto e poi anche all'inizio sentivo che tu dicevi anche per la forma regolare, a me piacciono molto le forme regolari nei piatti, quindi l'hamburger richiama molto questo tipo di idea e ritengo che tutto questo poi sia intrigante anche da proporre. Bene, sentiamo Raffaele Laimo. Ma da noi il principio, intanto scusate, saluto tutti, Davide, e ringrazio anche Berton per il saluto. Massimiliano ha ritenuto importante studiare le consistenze dell'hamburger classico, in quanto è un panino di grandissimo successo mondiale e quindi si è divertito ad approfondirlo, perché realizzato con ingredienti buoni, secondo lui risulta anche ai palati più allenati un'esperienza gastronomica molto piacevole. Quindi ha lavorato moltissimo dal pane agli ingredienti interni per elevare le sensazioni e la qualità. Ma io credo che Massimiliano, cioè, abbia anche così, sia andato verso l'hamburger soprattutto perché si mangia con le mani. Sì, beh, questo è un altro aspetto. Poi ti ciucci le dita anche, no? Certo. È un panino che sbrodola. Bene, sentiamo Alessandro dalla provincia di Fermo, radioascoltatore. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Io dalla mia esperienza nel settore alimentare posso garantire e dire che gli hamburger sono degli ottimi composti, mettiamolo come vogliamo, perché praticamente all'interno si possono inserire degli aromi, dei vegetali e potrebbero raggiungere delle proprietà nutrizionali non indifferenti. Per quello che riguarda il discorso della McDonald's, l'hanno vista lunga, è vero, è un prodotto completo che è rapido da preparare e dal punto di vista commerciale vediamo gli effetti. Bene, grazie Alessandro. Sentiamo Chiara da Milano. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno Davide. Io volevo dire questo. Ho letto questo libro molto interessante che si chiama Il dilemma dell'onnivoro, sì, in cui c'è questo giornalista americano che spiega che il costo dell'hamburger in realtà è solo apparentemente basso di McDonald's, perché in realtà il costo di un dollaro dell'hamburger non riflette tutti i costi che sono quelli sociali diciamo dell'hamburger, per cui noi paghiamo un dollaro o un euro all'hamburger e poi ne paghiamo 20 tra costi dell'impatto sull'ambiente dell'allevamento intensivo, costi per gli incentivi alla produzione di mais che danno da mangiare a queste bestie e costi sanitari, perché anch'io ho visto il film a cui cennavi prima e insomma che non faccia bene è abbastanza scontato. Sì, sì, l'impatto l'ho letto anch'io, il libro di Poulain, e da un impatto in Italia bisogna vedere se la situazione è la stessa, anche perché è un libro ambientato esclusivamente con problemi americani, però sicuramente anche in Italia ha il suo impatto, ma credo che sia leggermente inferiore a quello che avviene negli Stati Uniti. Bene, e devo dire ancora che appunto sono pieno di sms ma non li posso leggere tutti. Io vorrei tornare un momento a Severino Gala. Severino, qual è la parte diciamo più duttile per fare l'hamburger, il taglio più duttile per fare l'hamburger? Sempre il secondo taglio, la parte anteriore della bestia. Quindi il quarto anteriore, insomma. Il quarto anteriore va più che bene, perché l'hamburger deve rimanere soffice quando si mangia. Comunque ti voglio dirti che sta diventando non solo un fenomeno nei ristoranti, ma è un fenomeno dentro le famiglie, perché si mangia come secondo l'hamburger. Quando ci si siede a tavolo nelle famiglie comprano da me le hamburger, soprattutto le famiglie. Bene, grazie Severino. Veloce a Andrea Berton. Andrea, stai pensando ad altri piatti tratti così dal, diciamo, dal fast food per essere reinterpretati? Beh, diciamo che già comunque io in carta al Caffè Trussardi ho anche il toast, quindi già un piatto che comunque richiama un po' questo tipo di tipologia ed è una pietanza molto conosciuta. Anche in questo caso appunto valorizzo gli ingredienti e cerco di darle un tono più moderno anche alla pietanza. Quindi ritengo che l'importante sia comunque essere ben coscienti della qualità che si offre al cliente. Bene, grazie Andrea Berton. Raffaele, anche a te faccio la stessa domanda. Massimiliano sta studiando molto attorno alla pizza, alle lievitazioni e alla pizza. Bene, quindi grazie a tutti, grazie a Severino Gala, Andrea Bertone e a Raffaella Laimo. Devo dire che sicuramente sembra che appunto anche i grandi cuochi stiano reinterpretando il mangiare semplice, stiano reinterpretando quello che è fast food, proprio perché le esigenze del consumatore stanno notevolmente cambiando, e diciamocelo anche i costi stanno cambiando e stanno cambiando i prezzi a cui si possono adeguare i consumatori oggi in questa situazione. Bene, abbiamo chiuso questo lungo viaggio nell'hamburger. Io ringrazio tutti quelli che hanno mandato sms che non ho potuto leggere. Sarà per la prossima volta. E vi do appuntamento domani a Riposo del Guerriero alle 12.15, ogni giorno con la pillola alle 11.05, 23.05. Bene, auguro a tutti un buon weekend da Davide Paolini.